America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, la città italiana più popolosa del mondo. Mario Platero. Sei italiano come tuo padre? Tuo padre sta male. E mettiamo tutto a posto. Beh, avete sentito un classico, un clip del Padrino, dove a un certo punto si parla in italiano, un italiano ovviamente molto stretto, un italiano di accento meridionale e un italiano che ancora forse 50 anni fa si parlava, ma che oggi si parla molto meno. Anzi, vi dirò di più, che c'è stato un periodo, una cosa molto strana che colpisce questa rispetto alla cultura latinoamericana, un periodo in cui i genitori italiani scoraggiavano i loro figli dal parlare l'italiano proprio perché non volevano che fossero identificati con questa origine che poteva rischiare di avere il marchio della mafia. Il Padrino, la serie del Padrino ha affascinato gli americani. Pensate che la serie del Padrino è considerata la più ammirata dagli americani. Eppure la lingua non tiene, non ha tenuto. La lingua italiana è al nono posto tra lingue più parlate in casa negli Stati Uniti. Si calcola che ci siano circa 800.000 persone, ma è un numero che è diminuito drammaticamente, perché pensate che soltanto negli anni 80 1,6 milioni di persone parlava l'italiano a casa, e l'italiano allora era la terza lingua più parlata d'America. Ecco, secondo me è successo qualcosa di molto importante in questi ultimi anni, e cioè questo timore dell'appartenenza italiana che si identificava con la mafia è scomparso. Si riscoprono le radici, c'è l'orgoglio di vedere che gli italoamericani ormai fanno parte del tessuto americano nel senso più lato del termine, siedono alla Corte Suprema, sono i capi delle più importanti multinazionali, sono dei finanzieri di straordinario successo, dei banchieri, e dunque l'italiano torna, ma torna con difficoltà. Ah, io sono orgogliosa per questo giorno, perché mia figlia ha fatto molto lavoro per aiutare con gli AP program. Matilde Cuomo, la moglie dell'ex governatore di New York Mario Cuomo, e la madre dell'attuale governatore Andrew Cuomo, una donna straordinaria, devo dire, come avete sentito il suo italiano è ottimo, orgogliosa della figlia Margaret, che ha aiutato questo programma che lei stessa menziona, che si chiama AP, Advanced Placement Examination. Sono dei programmi che si fanno durante la scuola superiore, ma sono di un livello molto vicino al corso universitario, per cui gli studenti che scelgono di seguire questi corsi possono cominciare a seguire i corsi universitari a un livello già superiore. Ecco, per un certo periodo l'italiano faceva parte di questi AP e poi è stato cancellato perché non c'erano abbastanza studenti che sottoscrivevano questo programma, che si chiudeva dunque in perdita. Chiuso, però, lo sforzo dei Cuomo e di altri ha consentito di recuperare anche questi AP. Rappresentano 5.700 college, dunque università negli Stati Uniti, e richiede che ci siano almeno 5.000 iscritti all'anno. A un certo punto, nei 4 anni in cui questo esame veniva offerto, sono state perdite per 1,5 milioni di dollari l'anno e quindi è stato, vi dicevo, sospeso. Dopodiché, nel novembre del 2010, il governo italiano promette $500.000 all'anno, il meccanismo si rimette in moto, il nostro ambasciatore, il nostro consolato, i nostri consolati si danno da fare, e a questo punto abbiamo recuperato un numero soddisfacente di studenti che si avvicinano all'italiano. Ecco, questa nostra lingua, naturalmente nel contesto delle celebrazioni dell'anno della cultura italiana negli Stati Uniti, svolge un ruolo chiave, uno dei pilastri. La lingua è la chiave attraverso la quale ci si avvicina alla cultura. Ecco, abbiamo ai microfoni di America 24 l'ambasciatore Claudio Bisognera, ambasciatore d'Italia a Washington. Buongiorno ambasciatore. Buongiorno, è un piacere essere. Intanto mi sembra che ci siano grandi preparativi in atto, sta per partire l'anno della cultura italiana negli Stati Uniti. È vero, l'anno prossimo sarà un grande anno per l'Italia in America. Abbiamo lanciato questa grande iniziativa 2013, l'anno della cultura italiana negli Stati Uniti, con tantissime iniziative, oltre 150 in tutto il paese, in tutto l'anno, nel campo della tradizione ma anche della creatività e della innovazione italiana. Ecco, grande anno della cultura italiana, ma la lingua italiana non è molto parlata. So che però ci sono stati grossi sforzi da parte del nostro governo, suoi in particolare. Il ministro Terzi ha lanciato questa iniziativa per riprendere e rafforzare la presenza della lingua italiana negli Stati Uniti. Siamo riusciti a reinserire l'italiano come una lingua nel programma Advanced Placement, cioè quello che viene studiato negli ultimi anni del liceo americano, e siamo sulla buona strada per rafforzare la nostra presenza in questo periodo. Ecco, c'è una cosa che incuriosisce molti: come mai c'è stata questa disaffezione dell'immigrazione italiana nei confronti della loro lingua? Ma questo è un fenomeno in effetti antico, cioè tutta la immigrazione italiana, anche quella a cavallo del secolo precedente, quindi la immigrazione più antica italiana negli Stati Uniti, ha sempre come primissimo passo fatto lo sforzo di transitare subito all'inglese, proprio per evitare ai figli di incontrare quelle stesse enormi difficoltà che la primissima generazione aveva incontrato. Però poi è successo anche un altro fenomeno, e sta accadendo questo altro fenomeno, cioè la seconda, la terza, la quarta generazione riscoprono l'interesse per l'Italia, riscoprono le loro radici italiane e quindi riscoprono anche l'interesse per la lingua italiana. Ed è per questo che noi notiamo nei corsi di italiano che sono organizzati dai nostri istituti di cultura, dai nostri consolati, una forte presenza di americani in generale, ma di italoamericani più in particolare. Sul piano culturale o sul piano dell'uso della lingua, qual è un messaggio che può convincere un giovane a studiare l'italiano? Perché l'italiano e non il cinese? Ma io credo che, tanto per cominciare, 20 anni fa si parlava del giapponese e non del cinese, e quella meteora si è già per certi versi esaurita. Io credo che l'italiano è una lingua solida nei secoli, che dà accesso a un paese che ha uno straordinario spessore culturale qual è il nostro, un paese che ha delle grandi opportunità anche nel campo dell'economia, del design, della moda, qual è il nostro. Quindi credo che ci siano delle opportunità molto molto forti che secondo me gli americani pian piano stanno riscoprendo. Ecco, un'ultima cosa, tornando a quello che dicevamo prima, sarà capitato anche a lei, ma qui in America capita di incontrare degli italoamericani, appunto magari di seconda o terza generazione, che sono americanissimi per linguaggi, quali poi però, proprio presi da questa nostalgia, poi cominciano a parlare qualche parola di italiano e hanno questo accento antico, questo accento molto dialettale, che hanno imparato magari dalle nonne o dalle bisnonne immigrate. Ecco, che sensazione ha quando sente, le è capitato intanto, immagino? Mi è capitato molto spesso e devo dire la sensazione è di grande commozione, di grande affetto, perché uno si rende conto che il legame c'è, è profondo, e quelle poche parole dette magari in un dialetto che nessuno di noi ricorda più lo testimoniano in maniera molto molto chiara. Però quello è anche un sintomo che il nostro paese automaticamente è sinonimo di simpatia e di affetto. Io quando mi presento qui negli Stati Uniti come the Italian ambassador, l'ambasciatore italiano, la prima cosa che vedo sul volto del mio interlocutore è sempre un sorriso, e la seconda cosa che succede è che mi raccontano l'ultima volta che sono stati in Italia o la prossima volta che si recheranno in Italia. Quindi, come dicevo proprio all'inizio, noi abbiamo un grandissimo capitale, una grandissima piattaforma sulla quale dobbiamo innestare questo lavoro molto forte per il rilancio della lingua italiana. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, anche oggi abbiamo parlato dell'importanza della cultura italiana in America. Sono molte le parole italiane che ormai sono usate correntemente dagli americani: pasta, pizza, cappuccino, maestro, opera e naturalmente paparazzi. Dedichiamo la canzone del giorno a Lady Gaga, Paparazzi, come si dice in America. We are the crowd, we could come out, got my flash on, it's true, need that picture of you. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!